Ci vediamo da maschere. Era una frase che si sentiva sempre più spesso dietro le quinte nei caffè vicini ai teatri in periodi di prove. Da maschere si confezionava, si noleggiava, si riprendeva, non si vendeva mai. Per ogni nuovo spettacolo, i costumi soggiornavano addosso agli attori sulle cui misure erano stati tagliati e puntualmente, una volta dato lo spettacolo, tornavano in ditta, dove accuratamente puliti, andavano a rinforzare le scorte. Da maschere ora si poteva trovare di che vestire borghesi di Calais, alcesti vari, maschiette giocatrici di golf, sante blandine, pompieri, signore Bonacieux, violinisti zigani, agrippine, Mimì Pinson, spazzacamini e suore di San Vincenzo de Paoli. Da maschere prima si tagliava su misura, poi si ritoccava doviziosamente. Si montava, si smontava e si rimontava enormemente e molto spesso si ritrovavano i nastri verdi del misantropo sul cabriolet di una sartina. E il saio di una piccola suora dei poveri nelle brache di un pompiere. Da maschere bergamaschi tutto si creava, si ricreava, niente andava perduto. Ma per coloro che andavano da maschere, riconoscere all'improvviso su un nuovo costume, per una nuova parte, il frammento di stoffa, il pezzo di trina, o i due o tre bottoni cesellati già indossati in altre parti, era come ritrovare frammenti di lettere di una vecchia storia d'amore, e questa era proprio una cosa che li incantava. Tutto li incantava del resto quando andavano da maschere, e in primo luogo il semplice fatto di andarvi, giacché se vi andavano voleva dire che ce li mandavano, e se ce li mandavano a farsi tagliare o ritagliare un costume sulle loro misure, voleva dire irrefutabilmente che proprio loro erano stati definitivamente scritturati. Allora, sia che fossero molto vecchi o molto giovani, il giorno in cui andavano a farsi travestire come bambini, avevano il sorriso di chissà che almeno per un certo periodo l'avvenire è assicurato e la pancia è piena, il che li rendeva allegri. Incantati e allegri lo erano, non appena si inoltravano nel delizioso vialetto Chateaubriand, che sembrava fosse stato tracciato in qualche giardino per servire da scenario a dei balli in maschera. L'incanto perdurava lungo le scale che odoravano di cera e che portavano al primo piano, dove perdurava nei salotti arredati da Alex Grandi, con il gusto di cui era dotato e con l'astuzia di cui abbondava Victoria Jean. Su un parquet intarsiato e leggermente scricchiolante, i canapè, i puff, le poltroncine di velluto trapunto, le esili seggioline a colonnine dorate, le psiche con gli specchi immolati, saccheggiate a un'asta di mobili, Napoleone III a Versailles, accoglievano gli artisti. Sulle pareti, i ritratti dei loro grandi predecessori li inducevano a pensare che anch'essi si fossero già preparati nello stesso santuario alle loro prestigiose interpretazioni. Io voglio soltanto i morti, almeno quelli non creano gelosie, aveva preteso Victoria Jean. Erano quindi Thelma, la signorina Mar, Frédérique Lemaître, la signorina Georges, Réjeanne, la grande Sara Bernard e naturalmente Lucien Guitry a proporre il loro esemplare incoraggiamento ai più giovani o a riaccendere amari rancori tra i più anziani. Sotto il ritratto di Lucien Guitry, una piccola mensola serviva da supporto a un globo da pendola, sotto cui Victoria Jean aveva messo l'uovo di Fabergé, le cui funzioni di portasale, pepe e senape erano ormai superate in Rue Charles Lafitte. La reliquia riposava lì, ermetica ed enigmatica, esposta alla curiosità dei visitatori. I più eruditi si ricordavano i 7 anni di trionfi di Lucien Guitry alla corte dell'ultimo zar, e spiegavano agli ignari la provenienza e l'origine di quel dono imperiale che consideravano più al suo posto tra i saltimbanchi che in un qualunque museo. Victoria Jean lasciava parlare gli eruditi. Lei aspettava la comparsa di un personaggio da copertina per scomodarsi a tirar fuori l'uovo da sotto il globo, premere il piccolo rubino e mettere in moto il prezioso meccanismo. Accompagnato dalle note asprigne del clavicembalo, lo schiudersi dell'uovo ormai vuoto faceva nascere ammirati mormorii, al cui confronto le rumorose esclamazioni che salutavano in passato l'esibizione delle spezie risuonavano nella memoria di Nicole Roginski come grida da carrettieri. Quella piccola cerimonia si era svolta solo una volta o due. I personaggi da copertina erano ancora rari, da maschere. Sarebbero arrivati sicuramente in seguito. Per il momento erano solo gli attori secondari, le comparse e i figuranti a sfilare in viale Chateaubriand, accolti da Ginette. Ginette era stata una delle tre dame d'onore della regina Maria Antonietta née Lothricien e Le Serrurier, la più promettente fra le tre. Poi gli anni erano passati e lei non era mai emersa dai ranghi. Stanca delle parti di generica, un bel giorno si era sciolta in lacrime, provando da maschere il vestito da camerierina 1900 che avrebbe dovuto indossare in un'altra di quelle interpretazioni fugaci e mute che la rendevano così triste. Così disperatamente triste che si rimpinzava di dolci. L'impossibilità di agganciarsi il corpetto con le stecche, sommandosi allora al dispiacere di non ottenere mai una vera parte, aveva avuto ragione dei suoi nervi. Proprio quel giorno Maddy le aveva proposto di entrare a maschere. Ginette restituì la parte della camerierina e accettò quella dell'amabile ospite. Finalmente aveva trovato un lavoro stabile. E da allora, senza amarezza, con il buon umore sorridente e la saggezza di coloro che ne hanno fatto l'esperienza, sapeva condividere le speranze, le angosce, le delusioni dei suoi vecchi compagni di lavoro. Era sempre lei ad accogliere i registi e i disegnatori di costumi quando accompagnavano i loro bambinoni a scegliersi il costume tra le scorte. In quei momenti aveva la squisita sensazione di essere una loro pari. Non era più quella che si poteva licenziare con tanti ringraziamenti, era quella a cui si diceva grazie, Ginette. Viveva in piccolo ciò che Maddy viveva in grande. A Maddy gli stessi che non molto tempo prima facevano dei provini per poi spesso non prenderla nei loro spettacoli, ora dicevano cara Maddy quando non era cara signora. Maddy Varga entrava in scena solo per i costumi su misura e sempre seguita dalla signorina Agnès. La signorina Agnès era un'altra vecchia conoscenza di Maddy, dei tempi in cui si vestiva da Paul Poiret. Quando la signorina Agnès era passata a Molineux, Maddy l'aveva di nuovo seguita e quando aveva lasciato Molineux, Maddy l'aveva di nuovo seguita da Jean Lanvin, che Maddy le aveva infine fatto lasciare perché seguisse lei da maschere. La signorina Agnès era una vera prima lavorante e si faceva pagare in conseguenza. Non sorrideva mai se non con compassata ironia, in determinati momenti che peraltro erano sempre gli stessi. Lei aggiustava, puntava, sbastiva in silenzio, mentre Maddy si occupava della conversazione, finché con voce incolore la signorina Agnès non diceva «Ora può chiamare la signora Victoria Jean». Allora compariva Nicole. Dopo un breve saluto un po' rauco, che impressionava molto le attrici principianti, contemplava lungamente il costume, scuotendo pensosamente il capo. Dopo un attimo di silenzio, tendeva poi la mano verso la signorina Agnès e mormorava «Il gesso, per favore». E la signorina Agnès le presentava un gesso violetto, piatto e rettangolare, che tirava fuori dalla tasca di rigatino nero. Allora Victoria Jean tracciava senza esitazioni due o tre linee rette e a volte qualche croce di Sant'Andrea ben visibili, a pochi millimetri dalle imbastiture bianche, lungo le cuciture e le abbottonature. Non trova che così è più parlante, signorina Agnès? Diceva gravemente, rendendo il gesto. Molto di più, faceva la signorina Agnès, mettendosi il suo sorriso sulle labbra e il gesso violetto in tasca, mentre Victoria Jean scompariva. È quasi un niente, pure cambia tutto, concludeva Maddy. La signorina Agnès non assentiva né disapprovava, in silenzio svestiva l'artista e scompariva a sua volta con il costume incompiuto piegato sull'avambraccio. Dietro le quinte l'attendevano due apprendiste. Il loro lavoro consisteva soprattutto nel cancellare immediatamente ogni traccia di gesso violetto, giacché i falsi ritocchi non dovevano essere assolutamente confusi con quelli veri dalle sarte dei laboratori maschere bergamaschi, a cui venivano rimandati dopo il transito da Viale Chateaubriand. Di questi laboratori periferici ce n'erano tre o quattro. La ditta faceva lavorare molta gente che in ditta non si vedeva mai. Anche Alex ormai lo si vedeva poco. Quello scenario che pure aveva immaginato e arredato con amore aveva smesso di divertirlo, come i suoi amori del resto. La cosa risaliva al giorno in cui aveva capito il vero ruolo di Tintin nella vita di Maddy. Non era stata una tragedia né per l'uno né per l'altra, ancor meno per Augustin Leblanc, il quale non dovette subire nessun contraccolpo dalla rottura di una relazione che aveva ignorato completamente. Alex era diventato il miglior amico di Maddie e il complice divertito di Nicole. Era stato lui a insegnarle il giochetto del gesso violetto, che aveva saputo da un tizio molto ameno incontrato una sera al ristorante. Cherami, in Rue Jacob. Si chiamava Prater o Prevern, ma tutti lo chiamavano Jacques. Nicole se n'era appropriata e tutti ci trovavano il loro tornaconto, soprattutto Alex, che in tal modo si liberava dalle sue funzioni di direttore artistico, supervisore e ritoccatore per dei costumi che non aveva disegnato personalmente. Quanto alle scorte e alla loro carriera, beh, se ne disinteressava. Non sono né guardiano di museo né commesso al corps de chasse, aveva dichiarato all'ultima riunione della società. Per i costumi che disegnava lui, ai velluti imbottiti, ai ritratti dei grandi defunti, all'uovo di Fabergé, alla tetra competenza della signorina Agnès e all'eleganza dell'ottavo distretto. Preferiva le stanze da pranzo, approssimativamente arredate, di Rue de la Mare, dove ritrovava i sorrisi di Sonia e di Olga e il caffè, sempre pronto in una delle cucine Gutmann o Roginski. Avviso valevole come invito. I Bonnet vi lasciano, vi invitano a bere con loro un'ultima coppa d'addio sabato 29 giugno 1934 alle 19 in punto in casa loro al primo piano a destra. Eugène Bonnet, capo servizio del catasto al municipio di Saint-Mandé. Se lo stile del signor Bonnet era assai poco cambiato, il metodo adottato per trasmettere il suo amichevole messaggio si era decisamente modernizzato. Liquidando le vecchie usanze, aveva fatto le cose all'americana, come aveva personalmente spiegato a Ginette Clément, pregandola quella mattina verso le 8 di voler affiggere il suo testo dattilo scritto sulla porta vetri della portineria. Riguarda anche lei, naturalmente, aveva aggiunto con finezza, e fedele alle sue abitudini era scomparso senza aspettare. La signora Löwenthal fu la prima lettrice dell'avviso invito quando scese per la spesa. Fu tale la sua sorpresa che, senza esitare, riprese la via delle scale. Esitò un attimo al primo piano, davanti alla porta della signora Stern, ma poiché l'istinto le diceva che era più urgente portare prima la stupefacente notizia a Sonia e a Olga, proseguì la sua ascensione, sicura che quella volta l'importanza del messaggio avrebbe giustificato la sua intrusione. C'è da dire che l'ultima volta che aveva bussato dalle vicine, da Olga per l'esattezza, le cose erano andate male. Trovandole occupate a confezionare dei vestiti da contadine ungheresi, si era creduta legittimamente autorizzata a fornire qualche suggerimento ripescato tra i ricordi personali della sua Pushta natale. La cosa era piaciuta per un po' finché non era piaciuta più affatto, specialmente a quel gran maleducato di Alex di cui non ricordava mai il cognome e che ora se ne stava a domicilio là dentro. L'aveva ascoltata sorridendo, senza dire niente. Poi, con dolcezza, l'aveva presa per il braccio e riaccompagnata alla porta, baciata sulla fronte prima di dirle: «Cara signora Löwenthal, lei è una deliziosa rompiscatole, sicché sia ancor più deliziosa. Vada a romperle a qualcun altro e ci lasci lavorare me e le mie amichette». E aveva richiuso la porta. Era stata soprattutto quella parola «amichette» a scandalizzare la signora Löwenthal, la quale conosceva sufficientemente le sottili ambiguità della lingua francese per trarre dall'incidente le conclusioni che si imponevano. Da allora era quindi rimasta sulle sue, limitandosi a sorridere un po' tristemente a Elia Gutmann e a Stepan Roginski quando le capitava di incontrare per le scale i due miopi mariti. Ma dopotutto erano affari loro. E se c'era una cosa che la signora Löwenthal odiava, era proprio immischiarsi nella vita della gente. Eppure, ci sarebbe stato molto da ridire. Dio sa se lei non era come gli Stern con le loro preghiere e il loro rabbi, però mai un Kippur o un Rosh Hashanah, niente circoncisione, bar mitzvah, niente, mai niente di ebreo. Era troppo. Senza contare il modo in cui erano allevati i figlioli, se quello si poteva chiamare allevare. Fin da piccoli dettavano legge, canticchiavano e sghignazzavano stupidamente per un nonnulla. E da quando erano grandi, per mancanza di posto in casa loro, passavano la vita da quei portinai ai quali personalmente lei non aveva mai perdonato del tutto d'aver preso il posto della signora Lutz. L'immagine fuggitiva della signora Lutz, regina della festa d'addio dai Bonnet, le ricordò le ragioni che l'avevano spinta a risalire ai piani superiori. La stupefacente notizia che recava non era tanto quella della partenza dei Bonnet, né quella del favoloso avanzamento gerarchico che trasformava l'impiegato del comune del XX distretto in capo servizio al municipio della città di Saint-Mandé. No, la stupefacente notizia era quella del perdono a Bonnet. Il signor Bonnet, era chiaro, non ce l'aveva più con loro per la bastonata che si era buscato da una guardia mobile in Place de la Concorde nel febbraio scorso, nella notte tra il 6 e il 7, per essere esatti. La cicatrizzazione era stata lunga e difficile, non solo sul cranio del signor Bonnet, ma nella sua testa e nel suo cuore. L'aveva fatto duramente sentire in tutto lo stabile e la signora Loventhal non gli aveva potuto dare del tutto torto, perciò aveva formalmente vietato al signor Loventhal di andare a ciondolare dall'Alverniat dopo la vicenda Stavisky e i suoi strascichi erano stati ampiamente commentati tutte le sere, prima di febbraio, durante febbraio e dopo febbraio. La signora Loventhal si sentiva troppo francese per non condannare gli imbroglioni di origine straniera e troppo ebrea ungherese per non disprezzare gli imbroglioni ebrei russi. Era un po' complicato, ma era così che la pensava. Bussò dai Gutmann. Del lungo monologo della signora Loventhal, Sonia non ritenne che una cosa, l'inizio. Se i Bonnet se ne andavano, il primo piano a sinistra si rendeva libero. Era proprio quella e quella sola la stupefacente notizia che si mise a brillare come una pubblicità che si accende e si spegne e quasi colta dal panico all'idea che qualcun altro potesse impadronirsi prima di lei e di Olga di quello spazio che a loro mancava così crudelmente per lavorare senza far torto alla vita di figli e mariti, Sonia smise di ascoltare la signora Loventhal, la lasciò sul pianerottolo, bussò alla porta di Olga e insieme si precipitarono da Ginette Clément, unica rappresentante ufficiale della provvidenza urbana, alla quale potessero porre senza indugio la loro candidatura. La signora Loventhal, a corto di interlocutrici, ripiegò sulla signora Stern. La signora Stern, molto discreta e troppo distratta per informarsi, aveva sempre creduto che la fasciatura del suo vicino di pianerottolo fosse dovuta a un incidente del traffico. Non afferrò quindi di primo acchito la portata del perdono Bonnet come le veniva esposto dalla signora Loventhal. In compenso, il suo temperamento poco incline all'ottimismo la indusse a sentenziare sull'aleatorietà dell'avvenire che si prospettava per tutta la casa. Quando il cieco viene a sostituire il monocolo, si sa quello che si è perduto. E tre gazze che ti derubano valgono meno della gallina che faceva poche uova. La signora Loventhal, scoraggiata dal fatto che nessuno la capiva, decise di rimandare la spesa più tardi. Risalì in casa, lasciò la porta aperta e spiò il risveglio di Barsky che, come era noto, sarebbe stato tardivo. Nel frattempo, al pian terreno, Ginette Clément, ben consapevole, se così può dirsi, che non aveva nessun potere tranne quello di trasmettere il messaggio ad Aristide Cloutier, il quale non ne aveva più di lei, consigliava a Sonia e a Olga di scrivere senza por tempo in mezzo alla sede della provvidenza urbana. Davanti allo sgomento che si dipinse sui tratti di Olga e di Sonia, alla prospettiva di dover redigere una lettera, propose di aspettare la sera. Felix sarà perfettamente in grado di scriverla, disse, ma le lettere che si mandano alla provvidenza, soggiunse, si sa sempre quando partono, ma non si sa mai quando arrivano e nemmeno se arrivano, né chi le legge, ammesso che lassù le leggano. E mentre diceva lassù, pareva che parlasse della cima del Monte Bianco. Sonia e Olga risalirono in casa, contemplarono per un attimo la porta dei Bonnet, la cui serratura sembrava schernirle e dire «Trovate la chiave!» come sui disegni a indovinello, sempre insolubili per loro e che erano solo giochi da bambini per Maurice e Zazà. Come per la sola altra lettera che avessero mai spedito in vita loro, la borracciarono nella loro testa e ora si chiedevano se Félix Clément fosse l'uomo della situazione per quella nuova lettera. Si doveva adottare lo stile essendo di nostra spettanza piuttosto che quello della supplica? Conoscevano abbastanza Félix per paventare un po' il suo tono intimidatorio. Se aveva funzionato magnificamente per reclamare ciò che era dovuto, non era detto che dovesse funzionare anche per ottenere un favore. E poi i Bonè non erano ebrei e magari la provvidenza desiderava che un altro goi venisse a sostituire un goi uscente. E l'affitto? Disse all'improvviso Olga. Si immersero in calcoli da cui risultò che dividendo il nuovo affitto in parti uguali tra le due famiglie, con quello che guadagnavano ora ci potevano arrivare. E fu a quel punto che si resero conto di star facendo affidamento su un nuovo avvenire, senza neanche averne parlato, con i loro mariti. Era la seconda volta che capitava. Si sentirono un po' colpevoli e decisero di non fare come la volta precedente. Avrebbero aspettato il ritorno di Elia e di Stepan prima di spedire la lettera, che ancora non era stata scritta da chi non erano sicure che sapesse scriverla, a gente di cui pensavano che forse non l'avrebbe neanche letta. Si misero al lavoro. Quella volta si trattava di due costumi Winterhalter, come diceva lo schizzo. Non conoscevano quel Winterhalter, ma non si rallegravano con lui. Da 2 giorni combattevano con delle crinoline che rendevano i manichini talmente ingombranti da doverli riporre nelle cucine per aprire i letti di Zazà e Maurice. Sentirono un camion che si fermava davanti a casa. Al primo piano, di sotto, stavano spostando dei mobili. Il grosso del trasloco Bonnet era già cominciato. Allora si rimisero a fantasticare su quel vuoto che si andava organizzando sotto i loro piedi e che avrebbero saputo riempire tanto bene se solo gliene avessero data l'autorizzazione. La Croix de Feu, l'organizzazione antiparlamentare nazionalista fondata da ex combattenti nel 1927, abbandona il campo a quanto pare, disse Alex, che non avevano sentito entrare. Nel fruscio del taftà che aggiustavano sulla crinolina di Olga, stentò ad afferrare le vere ragioni della febbre che sembrava agitarle. Loro, di solito così calme, parlavano forte e si toglievano la parola di bocca per esporre più chiaramente una situazione in partenza semplicissima e in cui finiva per non capire assolutamente più niente. Silenzio! Ordinò. Si ricomincia tutto da capo. L'appartamento di sotto è libero, è così? Voi avete bisogno di spazio per lavorare per me? È così? C'è il telefono da Vercingetorige? No? Potete mettere il caffè sul fuoco, torno subito. Un quarto d'ora dopo Alex era di ritorno. Affare fatto! Disse sobriamente mettendo lo zucchero nel caffè. La navicella ha fatto suonare la campana antinebbia. La provvidenza è con noi. Sonia e Olga facevano sempre fatica a capire il linguaggio di Alex, quella mattina più che mai. E come non avevano capito che Vercingetorice era l'Alverniat, non capirono che la navicella era l'avvocato du Bateau Ripuat, di cui ignoravano perfino l'esistenza. In compenso capirono perfettamente che l'appartamento dei Bonnet era per loro. Mute guardavano quell'uomo che beveva tranquillamente il suo caffè. Lo guardavano come si guardano quei grandi viaggiatori ai quali non si chiede neanche da dove vengono, talmente vengono da lontano, da posti dove si è sicuri che non si andrà mai. Quegli altrove popolati da telefoni, semafori, segnali di via libera e sotterranei. Universi in cui non hanno più corso i numeri per la fila agli sportelli, i formulari da riempire in 3 esemplari, le espressioni del tipo scriva, le verrà risposto. Le manca un documento, ritorni. La sua autorizzazione scade domani. Parli più chiaramente, signora, non la capisco. Ginsky, con una I o una Y alla fine. Forza, Castellane, al lavoro, disse Alex che aveva finito il caffè. Dispensò qualche consiglio per le camicette di lino e i boleri di velluto da ricamare con arabeschi dorati e quando le lasciò erano come due sonnambule. Poco dopo, Ginette Clément, tutta trafelata, venne ad annunciare che Aristide Cloutier stava uscendo dalla portineria, che era venuto apposta per darle istruzioni di rispondere negativamente a ogni aspirante all'appartamento del primo piano resosi libero. Ordine della direzione generale, che aveva sicuramente qualche protetto. Allora Sonia e Olga la rassicurarono e le annunciarono la grande notizia. Ah, è così, allora siete voi le protette? Ah, beh, disse con un gran sorriso. E siamo noi, insomma, è il nostro laboratorio, rispose Sonia, che era troppo acuta per non aver intravisto nel sorriso di Ginette un impercettibile barlume di incredula riprovazione. Allora Felix non avrà da scrivere la letterina al buon Dio? Preferisco così, disse. Ci fu un breve silenzio, poi le baciò tutte e due. Vi cambierà la vita, è una buona cosa, soggiunse scappando giù per le scale. E poiché il peso del mio nuovo incarico mi porta sfortunatamente lontano da qui, è con una certa tristezza nel cuore che io e la signora Bonnevi abbandoniamo. Era stato un sorprendente destino a riunirci sotto lo stesso tetto, come il polline che l'ape bottina qua e là e porta all'alveare. Come le api avevamo anche noi la nostra regina. Ella ci ha lasciati già da molto tempo per la sua cara Lorena, ma non ha mai lasciato il nostro cuore, come dimostra la presenza al centro di questo tavolo della sua leccornia preferita. Perciò brinderò a lei e alla Francia, che grandi sventure stanno di nuovo minacciando. Al numero 58 di Rue de la Mar non abbiamo tutti le stesse medicine per curare la nostra malata grave, il mio caro paese, che ora anche il vostro, non lo dimenticate. Buona fortuna a voi tutti. Il signor Bonnet ripiegò il foglio su cui aveva scritto il suo discorsetto, se lo mise in tasca e afferrò la sola coppa piena che rimanesse sul tavolo per brindare con i suoi invitati, quali avevano già in mano la loro. Gli alla salute! Sussurrati, il tintinnio delle coppe che si toccavano risuonavano come in una cattedrale nell'appartamento ormai completamente vuoto. I rinfreschi erano stati preparati su una tavola posata su due cavalletti presi in prestito dal portinaio del municipio del 20° distretto e la signora Bonnet l'aveva coperta con un lenzuolo. Sopra vi aveva messo qualche fiordaliso, tre margherite e due papaveri che stavano già intristendo. Anche le coppe con tanto di stemma venivano dal municipio. Le quattro bottiglie di champagne erano della ditta Julien d'Amois e la Quiche Lorraine del Blé d'Or de Quimper. C'era quindi da bere e da mangiare. Quasi quanto nel discorso dei Bonnet, come avrebbe poi detto Félix Clément, che Ginette aveva dovuto supplicare perché accettasse di accompagnarla alla cerimonia d'addio e alla solenne consegna delle chiavi. Era venuto, aveva visto, aveva sentito e aveva bevuto, e niente era sfuggito alla sua analisi. Il discorso di Bonnet era una provocazione patriottarda, paternalistica e reazionaria. Bonnet avrebbe meritato un contraddittorio. Sfortunatamente né l'ora né il luogo si prestavano a prendere la parola e Felix se n'era rammaricato. Aveva nondimeno brindato con Eugène Bonnet, ma senza esprimergli il benché minimo rimpianto di vederlo lasciare la casa. Elia e Stepan, invece, avevano sentito un altro discorso, quello di un francese ad altri francesi. Nelle profezie di Bonnet avevano perfino creduto di cogliere un'allusione diretta al pericolo nazista. Dopotutto Hitler, il tedesco, era il nemico sia degli ebrei che di Bonnet, dicevano, contrariamente a Felix, il quale sosteneva che Bonnet non aveva più che un solo nemico, la sinistra, e di conseguenza l'Unione Sovietica. La signora Löwenthal aveva vibrato all'evocazione della sua vecchia amica, la signora Lutz, e aveva perso la fine del discorso, a proposito del quale il signor Löwenthal invece non aveva niente da dire. Neanche gli Stern avevano niente da dire, tranne quello che avrebbero detto fra loro e che riguardava soltanto la Quiche, alla quale 8 anni dopo erano riusciti ancora a sottrarsi. Barschi, da quando aveva letto l'avviso invito, non aveva smesso di ripetere la stessa lepidezza: divideremo l'ultima coppa, che poi sarà stata solo la seconda in 8 anni, oppure intende quella del condannato a morte. In questa disposizione d'animo aveva affrontato la cerimonia e ascoltato il discorso. Aveva ripreso 2 volte la quiche, visto che il signore e la signora Stern hanno il bruciore di stomaco, e bevuto 3 coppe di champagne. Sonia e Olga, invece, non avevano assolutamente ascoltato il discorso. Loro due avevano assistito alla cerimonia, che era parsa loro interminabile, con un sorriso affabile, ma uno sguardo da geometra. Avevano fatto uno sforzo per non allontanarsi dal cerchio che si era formato intorno ai Bonnet davanti al buffet, mentre morivano dalla voglia di circolare in tutto quello spazio senza mobili, le cui proporzioni, pur così familiari, avevano l'aria di essere 10 volte più grandi o addirittura di aver ritrovato le loro dimensioni. Quelle vere dimensioni che le avevano talmente sedotte una dopo l'altra, le avevano scoperte anni prima. Ora, mentre nelle loro teste stavano già sistemando quello spazio per l'avvenire, si rivedevano giovanissime sbarcare alla Gare de l'Est e e deporre per la prima volta i loro fagotti di emigranti nello stesso esatto posto. I bambini dello stabile non erano stati invitati. In ogni modo, i gemelli Bonnet avevano dato già da un pezzo il loro personale addio al quartiere. Era stato all'epoca della selezione Florian, che aveva disperso la comunità infantile di Rue de la Mare alla fine dell'anno scolastico 1930. Con tatto, carità e fermezza, il signor Florian aveva convocato separatamente i genitori dei suoi allievi per comunicare il risultato delle sue riflessioni sull'orientamento da dare ai figli. Maurice, Robert e Samy Nussbaum erano stati tutti e tre riconosciuti idonei al primo anno della scuola superiore, gli altri a proseguire nella scuola di Rue Henri Chevreau e in un corso professionale. Il signor Bonnet aveva preferito per i suoi ragazzi il collegio a Meaux, dove abitava una sua sorella nubile, vice contabile alle Ferrovie dello Stato. A volte si erano rivisti i gemelli nelle loro divise a bottoni dorati, ma in genere erano i Bonnet che la domenica andavano da loro per portarli fuori. Prendevano il treno per il quale avevano una riduzione. Preferiamo andare noi. C'è un ottimo ristorante a Meaux, dei bei viali grandi e un diversivo alla strada dove non ci piaceva che i ragazzi stessero a ciondolare e poi ci fa uscire un po' di casa. Aveva confidato la signora Bonnet a Ginette Clément che si stupiva di non vedere mai i gemelli a Parigi. Ah, se la devono proprio spassare tutti e cinque con la zia la domenica a Meaux, aveva detto Robert a Maurice. Il quale non riusciva a immaginarsi, Elia e Sonia, che l'aspettavano alla porta di una prigione per portarlo al ristorante. Era un'immagine talmente assurda che Maurice sentì il bisogno di comunicarne la stranezza a Zazà. Era da tanto tempo che non ridevano insieme come pazzi, da tanto di quel tempo che insieme, e senza essersi messi d'accordo, si misero a canticchiare «Lei mi fa pue pue». La sera della partenza dei Bonnet si fecero raccontare i discorsi, lo champagne e la quiche e scesero tutti e due con Sonia e Olga in quello che sarebbe diventato il regno esclusivo delle loro madri. Un po' intimiditi dalla professionalità con cui le due donne sceglievano il posto per i grandi tavoli, i manichini, la tavola da stiro, gli specchi, la macchina per cucire di cui aveva parlato Alex, la tenda da montare per creare una piccola cabina di prova, si sentirono vagamente spossessati delle loro madri e come esclusi da un mondo che da sempre avevano diviso con loro. «Potrei avere il mio letto pieghevole in un angolo?» chiese Maurice. «Lascerebbe un po' di spazio di sopra e mi farebbe comodo per studiare la sera con Robert?» «E io allora?» fece Zazà. «Oh, per quello che combinate in classe tu e le tue amiche non hai davvero bisogno di un posto per fare delle ore extra dopo cena», dichiarò Maurice mentre risaliva da suo padre e da Stepan. «Di sopra?» Sentì che il suo arrivo interrompeva una conversazione che non lo riguardava e in cui si parlava di un certo Valodie. «Chi è Valodie?» domandò Maurice. «Ah, niente, è una storia vecchia. È per via di quello che Felix raccontava poco fa. Allora, dicevi che prendi il tuo letto e te ne vai a fare il giovanotto al piano di sotto? Che ne pensa tua madre?» «Non mi ha risposto, per questo ne parlo a te, perché ne parliate insieme», disse Maurice. «Toh, questa è nuova. Che ne dici, Stepan? Ora si mettono a parlarci? Se continua così, forse ci chiederanno perfino il nostro parere», scherzò Elia. C'era qualcosa di vero e una buona dose di finzione in quel simulacro di amarezza. Sorpassati dalle iniziative delle loro mogli, Elia e Stepan traboccavano d'ammirazione per la loro energia, in particolare per quella che avevano manifestato per rendere ai loro mariti la tranquillità di cui godevano una volta, quando, uscendo dai laboratori, ritrovavano una vera casa e non un altro laboratorio. In quegli anni da rifinitrici, Sonia e Olga avevano sempre fatto in modo di legare le quattro cocche delle pezze nere e di far scomparire i ritagli di stoffa e i peli di pelliccia molto prima di sentire il passo di Stepan e di Elia per le scale. Loro lo avevano sempre notato, ma non avevano mai detto niente. Da quando erano diventate travestitrici, come diceva Stepan, nonostante tutti gli sforzi, non riuscivano più a dissimulare completamente le tracce dei loro lavori in corso. E da quando erano entrati in casa i due manichini, poi non ci provavano neanche più. Elia e Stepan Non potevano non averlo notato, e ciò nonostante neppure allora ne avevano parlato, ma era capitato che rincasassero e poi uscissero di nuovo per andare a bere qualcosa all'Alverniat mentre aspettavano. Ormai, come per incantesimo, tutto sarebbe rientrato nell'ordine grazie a loro. Erano fantastiche, davvero fantastiche. Però gli sarebbe piaciuto essere stati i primi a sapere della partenza e della sostituzione dei Monet. Così per una questione di principio. Ma le mogli non avevano detto neanche questo. Bene, parleremo la mamma e io, e domani ti sapremo dire per il tuo letto, riprese Elia con aria grave. Guardava Maurice, ma neanche a lui aveva detto che stentava a credere di avere un figlio che parlava greco, latino e inglese, oltre al francese che lui faceva così fatica a parlare. Un figlio che sarebbe stato bacelliere. Come aveva dovuto sillabargli Maurice quando gli aveva spiegato che non era una professione come quella di pellettiere, ad esempio. Tanto per ridere, Maurice aveva fatto credere ai genitori, per tutta la durata di una cena, che per diventare bacelliere avrebbe dovuto fare per 2 giorni compiti interminabili, ma la cosa peggiore era un'altra. La cosa peggiore era che quei compiti si dovevano fare su una specie di battello piatto, senza cabina, che faceva la spola tra le 2 rive di un fiume immenso finché non avessero finito di scrivere. Non avevano neanche riso quanto aveva sperato. Non gli avevano neanche creduto del tutto quando aveva detto che non era vero. Tutto era diventato misterioso e spesso incomprensibile da quando Maurice non andava più a scuola da Florian. Bacelliere in realtà significava diplomato. Era cominciato al momento del passaggio dalla sesta alla quinta. In Francia le scuole cominciavano dall'undicesima e avevano una numerazione a ritroso. La sesta equivale quindi all'attuale prima media italiana. Allora, vai indietro? No, vado avanti, aveva spiegato Maurice. È il mondo alla rovescia, aveva detto Elia ai compagni dai fratelli Mercier. Da allora, tutti gli anni, gli chiedevano regolarmente: Allora, Lilic, il tuo figliolo non è ancora arrivato in cantina? Ci arriva, ci arriva, aveva risposto Elia quella mattina. Passa in seconda. Insomma, tu vuoi che dica alla mamma che per salire meglio in seconda devi scendere al primo piano, è così? Disse Elia tutto contento di aver inventato in francese quel gioco di parole che fece ridere molto Stepan. Hai capito tutto, papà, esclamò Maurice abbracciando il padre. L'idea di fare al primo piano un dormitorio pieghevole per Maurice e Robert non veniva dai Clément, era stata Sonia a pensarci. Così questo cambierà la vita anche a voi, aveva detto a Ginette, che troppo acuta anche lei per non cogliere l'allusione, aveva accettato di gran cuore. Robert e Josette, nella stessa camera, sia pure con un paravento, stava diventando un problema.